Un piccolo pastore sotto il terrore, 1793-1794. La messa del prete giurato. Nel gennaio 1791, quando entrò in vigore nel Lionese la Costituzione civile del clero, Giovanni Maria non aveva ancora 5 anni. Giacomo Re, parroco a Dardigli, da 39 anni, aveva avuto la debolezza di prestare il giuramento scismatico, ma poco appresso, illuminato, se si vuol prestare fede alle tradizioni locali, dall'esempio del suo vicario e dei confratelli vicini che avevano rifiutato il giuramento, aveva riconosciuto la sua colpa e, dopo essere rimasto qualche tempo ancora nella sua parrocchia celebrando messa in una casa privata, si era ritirato a Lione per passare poi in Italia. La partenza del parroco Rei non passò inosservata, ma non turbò molto gli abitanti di Dardigli. La chiesa era aperta, perché era giunto un altro parroco, mandato dal nuovo vescovo, un certo Lamuret, amico di Mirabeau, che la Costituente aveva messo al posto di Monsignor de Marbeuf, senza il mandato di Roma. Il nuovo parroco, come il nuovo vescovo, aveva prestato il giuramento, ma il buon popolo di Dardigli non era in grado di sospettare che la Costituzione civile, di cui ignorava forse anche il nome, conducesse allo scisma e all'eresia. Non essendovi nessun cambiamento apparente nei riti e nelle usanze parrocchiali, quei cuori semplici assistettero per qualche tempo senza scrupolo alla messa del prete giurato. Così, in perfetta buona fede, agirono anche Matteo Vianney, sua moglie e i figli. Presto, tuttavia, i loro occhi si aprirono a Caterina, la maggiore delle figlie, che a quest'epoca non aveva che 12 anni, fece impressione il fatto che il nuovo pastore non parlava secondo lo spirito di Don Rei, né trattava i medesimi argomenti. Nei suoi discorsi tornavano con insistenza i nomi di cittadino, di civismo, di costituzione e non mancavano critiche ai suoi predecessori. In chiesa la frequenza alle sacre funzioni non era più quella degli anni antecedenti. Mancavano persone note per la loro esemplare pietà e Caterina si domandava dove andassero per ascoltare la messa festiva. Al contrario, ai primi posti si vedevano persone che anteriormente non frequentavano la chiesa. Tutto questo fece nascere dei sospetti e dei timori che Caterina confidò alla madre. In quello stesso tempo venne a far visita ai Vianney una parente di Écouly, la quale, appena seppe che assistevano alla messa del prete giurato, confermò definitivamente i loro timori con queste osservazioni. I buoni preti hanno rifiutato il giuramento e furono cacciati, perseguitati, obbligati a fuggire. È una fortuna per noi che ad Écouly alcuni abbiano potuto rimanere, ed è a quelli che bisogna rivolgersi. Il vostro nuovo pastore ha prestato il giuramento e si è ritirato così dalla Chiesa Cattolica. Non è più vostro pastore e non potete più seguirlo. La madre a queste parole provò un'impressione profonda e non esitò a presentarsi all'infelice pseudopastore di Dardigli per rimproverargli la sua apostasia dalla Chiesa Cattolica. Gli ricordò quel passo del Vangelo dove è detto che il traccio staccato dalla vite sarà gettato al fuoco. E fece tanta impressione su di lui che prima di congedarla egli le disse: «È vero, signora, la vite è migliore del tralcio». È da ritenersi che Maria Vianney abbia raccontato a casa la colpa di questo infelice, poiché fu detto che il piccolo Giovanni Maria ebbe in orrore il peccato dal giorno in cui si mise a fuggire il prete giurato. Da allora la chiesa parrocchiale, luogo di tanti cari ricordi ove i genitori si erano sposati ed i figli avevano ricevuto la grazia del battesimo, per la famiglia Vianney cessò di essere il convegno della preghiera. Fu presto chiusa. I preti fedeli e la messa nei granai. Ma erano prossimi i giorni della persecuzione sanguinosa. Tutti i sacerdoti che avevano rifiutato il giuramento erano esposti al pericolo di essere arrestati e giustiziati entro 24 ore, senza possibilità di appello. Coloro che avessero denunciato tali preti avrebbero avuto un compenso di 100 franchi. e coloro che li avessero ospitati avrebbero subito la pena della deportazione, a tenore delle leggi 24 aprile, 17 settembre e 20 ottobre 1793. Malgrado queste minacce terrificanti, vi furono preti fedeli che rimasero nelle vicinanze di Dardigli e che ricevette ospitalità e rifugio nella casa Vianney, ove qualcuno celebrò anche la Santa Messa. Fu un miracolo se il generoso benefattore, già in sospetto presso qualche giacobino, non pagò con la vita la sua santa audacia. La maggior parte di questi confessori della fede ricevettero asilo in Lione e nei sobborghi. Dei messi sicuri, mandati da Écouly in determinati giorni, visitavano le famiglie cattoliche, indicando dove la notte seguente sarebbero stati celebrati i divini misteri. I Vianney partivano alla sera, silenziosamente, viaggiando qualche volta a lungo nelle tenebre, ed il piccolo Giovanni Maria era felice di correre a quella festa, nonostante le sue deboli forze. I suoi fratelli e le sue sorelle qualche volta trovavano la distanza esagerata e si lamentavano, ma la Pia Madre poteva sempre incoraggiarli col nobile esempio del fratello e diceva: «Fate come Giovanni Maria, che ha sempre fretta». Giunti al luogo stabilito, venivano ricevuti in un granaio o in una camera appena rischiarata da qualche raggio di luce, nella quale, vicino ad una tavola rustica, stava in preghiera uno sconosciuto che portava in fronte i segni di molto patire, ma che aveva nel suo sorriso qualche cosa di celeste. Era questi che con le braccia aperte si faceva incontro ai nuovi venuti, per poi ritirarsi nell'angolo remoto ove venivano scambiate angosciose confidenze. Separato da una semplice tenda, il buon prete, con voce molto bassa, dava consigli, incoraggiamenti ed infine congedava i visitatori con l'assoluzione. Qualche volta si presentavano anche giovani fidanzati a domandare che venisse benedetta la loro unione. Da ultimo veniva celebrata la Santa Messa, supremo desiderio di tutti, grandi e piccoli. Il prete preparava sull'altare la pietra sacra portata da lui stesso, il messale, il calice e molte particole, perché ben sapeva che in quella notte non sarebbe stato solo a comunicarsi. Vestitosi in fretta dei suoi paramenti gualciti e consumati, davanti all'altare, fra il profondo silenzio, iniziava il rito religioso. «Salirò all'altare di Dio». Quale fervore nella sua voce, ma anche quale raccoglimento e quale profonda emozione in tutti coloro che assistevano. Ben presto, al mormorio sommesso delle parole sacre, si univa il rumore dei singhiozzi. Si sarebbe detto che fosse una messa delle catacombe, prima della prigione e del martirio. E come si commosse in questi momenti solenni, in questi minuti indimenticabili, l'anima del piccolo Vianney. Se ne stava inginocchiato tra sua madre e le sue sorelle e pregava come pregano gli angeli. Quando sentiva piangere, piangeva anche lui, commosso per la commozione degli altri. Poi, con un'attenzione superiore alla sua età, pure senza comprendere tutto, ascoltava le istruzioni che con voce grave venivano date dal sacerdote, divenuto un povero proscritto che metteva a rischio la sua vita per la salvezza e l'amore delle anime. Forse ha sentito la chiamata divina al sacerdozio in queste riunioni notturne? Combattimenti nelle vicinanze di Lione. 1793. Il terrore. A Lione il sangue scorreva e sulla Place des Terreurs la ghigliottina lavorava senza tregua. Allorché si seppe che la lista dei proscritti presentata dal console Chalier portava non meno di 20.000 abitanti di Lione, nacque una rivolta popolare che, diretta da Plessis, portò sul patibolo lo stesso proconsole, lasciando rinascere fra i cattolici l'alba di migliori speranze. Ed ecco invece che un'armata della Convenzione al comando di Couthon e di Dubois-Crancé pone lo stato d'assedio. Dall'8 agosto al 9 ottobre l'energia di Plessis assicurò la resistenza, ma infine si fu costretti a cedere, causa la carestia. Certo, un bambino di 7 anni non poteva comprendere questi avvenimenti in tutta la loro portata. A lui però era giunto il rumore delle battaglie combattute in prossimità dei campi paterni. Dubois-Crancé si era stabilito con le sue truppe intorno a Limonest, ad alcuni chilometri al nord di Dardilly, ed i soldati della rivoluzione attraversavano con frequenza il villaggio. Ma più che per il rumore della guerra, il fanciullo era inquieto per l'ostinato silenzio delle campane. La chiesa era ormai chiusa e sulle strade non si vedevano che i resti delle cappelle abbattute o delle croci rovinate da uomini venuti da Lione. Anche nelle case private entrava l'odio alle cose sacre ed era stato necessario nascondere bene i crocifissi, le immagini di pietà e le piccole statue. Vi era insomma una cosa sola che non si era riusciti ad abbattere, il santuario dei cuori, almeno in coloro che erano cristiani ferventi. Giovanni Maria non aveva potuto separarsi dalla sua Santa Vergine. La voleva sempre con sé, con infinite precauzioni, e la portava anche nel campo, nascondendola bene in una tasca del suo vestitino. Dardilly e Chantemerle. I fanciulli dimenticano o si consolano presto e con poco. Anche se la rivoluzione aveva insanguinato la Francia, nella campagna di Dardilly gli uccelli continuavano a cinguettare e gli agnelli a saltellare. Giovanni Maria, durante quei terribili mesi, visse lunghe ore nella tranquillità della natura, dalla quale l'uomo nemico non aveva cancellato la traccia di Dio. L'orizzonte di Dardilly è ampio e bello. Il paese si eleva all'estremità di un altipiano un po' montuoso, che ha il suo pendio dalla parte di Lione, e di là il Mont d'Or e i colli della Fourvière appaiono abbastanza vicini. È certo però che tutte quelle alture non interessavano molto lo sguardo ed il pensiero di Giovanni Maria. Egli preferiva le praterie familiari che rivestivano del loro verde le valli al Précousin, alla Chênerolles o al Chantemerle, dove erano i pascoli della fattoria. L'8 maggio 1793 compiva 7 anni ed, essendo abbastanza grande per poter incominciare ad essere utile, gli fu affidata la guardia del gregge. Da allora, 2 volte al giorno, conduce al pascolo l'asino, le vacche, le pecore della sua stalla, tenendo per mano Goton, sua sorella minore, perché i sentieri che guidano alla valle sono tortuosi e difficili. Entrambi hanno promesso d'essere buoni. Del resto avranno di che occuparsi, perché portano con sé della lana da lavorare. In quei tempi, pastori e pastorelle, mentre sorvegliavano gli animali, confezionavano delle calze. La profonda valle di Chantemerle ha perso, con le ombre suggestive d'un tempo, il raccoglimento della solitudine, ma possiede ancora delle attrattive col suo ruscello dei Planchers, fiancheggiato da rose canine, da ontani e da tremole. Vi nidificano uccelli canori e di qui viene il suo nome. Dire che Giovanni Maria abbia amato questo incanto di natura è poco. Ne conservò sempre un caro ricordo e tra le sollecitudini e le accalmazioni della folla lo si sentirà gettare dei sospiri, ricordando quei campi paterni, perché là era sempre stato felice. Aveva avuto il tempo di pregare e di pensare all'anima sua. La madre dava certo un buon indirizzo in proposito. Appena giunti al prato, il fratello e la sorella si inginocchiavano per offrire a Dio la loro fatica di piccoli pastori e si mettevano poi alla guardia, sempre solleciti che gli armenti non portassero danno al raccolto dei vicini. Non vi è dubbio che Goton passava volentieri il suo tempo a chiacchierare con Giovanni Maria, perché egli conosceva belle storie, le raccontava i fatti dell'Antico e Nuovo Testamento, le insegnava le preghiere e le dava anche dei consigli circa la pietà. «Vedi, Goton, quando vai alla messa devi essere molto modesta», e le insegnava come avrebbe dovuto comportarsi. Il fanciullo, che un giorno era stato sorpreso in contemplazione in una stalla, non cessava di provare quella fame di Dio che è il tormento e la gioia delle anime sante. «Fa tu la mia calza», diceva Armagrita, io devo andare a pregare là, vicino al ruscello. C'era in quel luogo un salice tutto roso e Giovanni Maria collocava la statua in un buco del vecchio albero, la circondava di muschio, di fronde e di fiori. Poi si poneva in ginocchio e cominciava a sgranare il suo rosario. Le sponde del ruscello avevano sostituito la chiesa deserta, ove più nessuno pregava. Qualche volta l'angelico giovinetto preparava per la sua statuetta un altare provvisorio e con la terra costruiva piccole cappelle per collocarvi santi o preti da lui modellati. Aveva in questo una certa abilità che l'istruzione avrebbe potuto sviluppare. Si sa che modellò con le sue mani una statuetta della Vergine, che era discreta. Suo padre stesso si era interessato a farla cuocere nel forno e fu lungamente conservata nella casa. Quando l'altare provvisorio era terminato, Giovanni Maria e Goton, risvegliando vaghi ricordi di processioni di Corpus Domini ormai aboliti, ripetevano brani di canti sacri. Preghiere, giuochi e sermoni. Vi erano anche altri pastori che non erano sempre molto educati e Giovanni Maria non poteva impedire che venissero a cercare la sua compagnia. In certi giorni, specialmente, molti passavano nei campi dei Viannei, contemplando con meraviglia l'altare provvisorio circondato di verde e facevano all'artista mille domande, alle quali rispondeva senza imbarazzo né fastidio. Ma questi fanciulli, pressa poco della sua età, come mai ignoravano ciò che quelle statuette raffiguravano? Eppure, anch'essi un tempo avevano frequentato la chiesa. Meno devoti e attenti, purtroppo, avevano dimenticato le belle cerimonie delle domeniche e delle feste. Fra costoro, Giovanni Maria, senza saperlo, diventa un apostolo ed un catechista. In piedi, presso il rustico altare, egli ripete quello che ha udito nel silenzio inquieto delle notti e insegna le preghiere che ha imparato da sua madre. Un fanciullo, ammonisce, non deve disubbedire ai suoi genitori. Non deve dire bestemmie o parole volgari, e conclude con gravità. Siamo buoni, amiamo di cuore il Signore. Nelle grandi ombre di Chantemerle era sbocciata una vocazione sacerdotale. Siccome l'uditorio poco si adattava a quelle prediche, i sermoni dovevano essere necessariamente molto brevi. Organizzava anche delle processioni e mentre in tutta la Francia erano state proibite le cerimonie religiose, in questa valle oscura ed ignota al mondo vi erano dei pastori che seguivano in fila una croce fabbricata con due bastoni e recitavano il rosario accompagnandolo con ingenui cantici. Ero quasi sempre io che facevo la parte del prete, dirà poi un giorno Vianney, non senza una dolce fierezza, quando ormai altri suoi sogni si saranno avverati. Eccetto che per questi pii svaghi, il nostro piccolo predicatore amava poco trovarsi con gli altri fanciulli. Non amava i loro giochi rumorosi e turbolenti, e soprattutto non gli garbavano certe proposte che gli si facevano. Solo alcune volte, per fare loro piacere, accettava di giocare con esti alle piastrelle. Andrea Proven, che fu compagno di infanzia di Giovanni Maria e che era più giovane di lui solo di 2 anni, 70 anni più tardi, parlando di quei giochi, racconta: era molto abile e ci vinceva facilmente. Quando perdevamo, di solito eravamo tristi, ed egli, vedendo il nostro broncio, diceva: allora non si doveva giocare. Ma infine, per consolarci, ci restituiva il nostro denaro e ci metteva sempre un soldo di più. Spesso portava a Chantemerle un grosso pezzo di pane ricevuto dalla mamma e lo divideva con i compagni più poveri, acquistandosi con questo gesto caritatevole l'autorità di rimproverare liberamente anche quei compagni più grandi di lui che, in un eccesso di collera, si permettessero di percuotere i loro compagni o le bestie. Questo non si deve fare, diceva con dolcezza, è peccato. Di solito veniva ascoltato, ma talvolta l'osservazione non garbava al ragazzo vizioso più vecchio, che allora si permetteva di colpire Giovanni Maria alle gambe, ben sicuro che quei colpi non gli sarebbero stati resi. Fortuna volle che fra quei ragazzi ve ne fossero alcuni veramente educati e buoni, come Francesco Duclos, Andrea Proven, Giovanni Dumont, E quando Coton non poteva accompagnare suo fratello, il padre permetteva a Giovanni Maria di prendere con sé uno di quei ragazzi. «Vieni», disse un giorno al piccolo Duclos, «ho con me un buon desinare e lo divideremo». Un giorno, a Chantemerlé, Giovanni Maria si era nascosto a pregare in mezzo ai salici argentati, che fiancheggiavano il ruscello dei Planchet. «Dov'è?» domandarono i pastori dei campi vicini. E Francesco Duclos, tradendo il piccolo eremita, condusse gli altri verso i salici. Lo trovarono inginocchiato in preghiera. Giovanni Maria Vianney e Maria Vincente. Un pomeriggio d'estate il fanciullo partì dalla casa paterna con un carico di grano che doveva portare fino al mulino dei Saint-Didier, e la figlia dei vicini, Maria Vincente, che aveva la sua età, volle accompagnarlo. Col consenso dei genitori, i due fanciulli si misero dunque in cammino. Era una giornata afosa e si fermarono in un luogo molto ombreggiato per riposare. Era l'ora delle confidenze. Maria stimava quel piccolo compagno, così tranquillo, così obbediente, dagli occhi azzurri, tanto dolci. «Giovanni Maria», disse candidamente, «se i nostri genitori fossero d'accordo, ci potremmo sposare». «Oh no, mai», rispose con vivacità l'altro, con molta sorpresa. «Non parliamo più di queste cose, Maria». Si alzò, prese la briglia dell'asino e continuarono la strada verso il mulino. 60 anni più tardi, Maria Vincent, seduta sulla porta della sua casa con la conocchia in mano, raccontava senza amarezza e con voce intenerita questo grazioso idillio, il più bello e forse l'unico della sua vita. In Giovanni Maria si sviluppavano già quella modestia e quella delicatezza innata che lo spinsero a rinunciare alle tenerezze più care e più legittime. Sapevo che era lecito, dirà più tardi, tuttavia qualche volta ho rifiutato di abbracciare anche la mia povera madre. Giovanni Maria e i poveri. La Convenzione aveva sperato di distruggere il culto divino chiudendo le chiese, ma non aveva potuto sopprimere una delle più belle manifestazioni della religione, cioè la carità, la quale continuò sempre a fiorire nella casa dei Vianney. Era una virtù quasi ricevuta per eredità, e l'apostolo di questa virtù tutta divina fu appunto il nostro santo. Uno dei suoi compagni di Dardigli, Andrea Proven, l'ha visto dirigersi col suo asino carico di legna verso la casa dei poveri col volto raggiante. «Metti 2 o 3 pezzi di legna», gli diceva dapprima il padre, poi aggiungeva: «Mettine quante puoi». I mendicanti trovavano facilmente asilo a Dardigli. I Vincent, genitori di Maria e i Vianney, erano venuti ad un accordo che prova quanto vivessero in buona armonia, ma che soprattutto è segno dei loro sentimenti profondamente cristiani. I Vincent accoglierebbero le donne povere, mentre gli uomini dovrebbero indirizzarsi ai Vianney. In questo caso era Giovanni Maria che indicava la porta della casa paterna ai mendicanti. Questi infelici qualche volta avevano con sé figli piccoli e Giovanni Maria, vedendoli, si commuoveva fino alle lacrime. Li prendeva per mano, li accompagnava in casa e li raccomandava alla madre. Ve n'erano di quelli che mancavano di zoccoli, di vesti, di pantaloni, della camicia, e la pia e caritatevole madre aumentava la gioia del figlio correndo all'armadio in cerca di questi doni desiderati. Senza soggezione, i poveri dovevano sedersi alla tavola dei padroni ed erano serviti per i primi. Una sera, così guidati dalla divina provvidenza, arrivarono ben 20 di questi ospiti. «Non c'è brodo per tutti», diceva qualche volta la massaia al marito. «Starò senza io», rispondeva il brav'uomo. Fra questi erranti della strada vi erano forse dei preti proscritti, forse anche dei miscredenti, imbevuti delle idee dell'epoca, e fu per una speciale benedizione di Dio su questa famiglia se i Vianney non furono traditi. Certo, correvano un bel rischio. Si immagini che dopo la refezione, sia pure a porte chiuse, gli ospiti erano invitati ad inginocchiarsi, mentre una voce pura e fresca di bimbo si elevava a dire in nome di tutti la preghiera della sera. Finita la preghiera, era ancora Giovanni Maria che con i suoi fratellini conduceva i poveri al riposo nel granaio o nel fienile, ove li attendeva un buon strato di paglia. La grande pace di Dio avvolgeva la casa della carità. La vita in famiglia. Prima di coricarsi, Giovanni Maria faceva quello che aveva visto tante volte fare da suo padre e che prima aveva già fatto suo nonno, Pietro Vianney, cioè scopava il focolare al quale si erano assisi i poveri e stendeva dinanzi alla brace morente i loro mantelli, inzuppati di acqua. Infine, prima di andare a riposo, si tratteneva ancora con sua madre e con sua sorella, parlando di religione, spinto dalla sua pietà che ogni giorno cresceva. Con loro recitava qualche preghiera per le anime del purgatorio, i mendicanti dell'aldilà, e si ritirava dopo aver scambiato l'augurio della buonanotte. Fin da quel tempo Giovanni Maria Vianney aveva devozione per le anime del purgatorio. Nel 1793 ci morì una zia, racconta Margherita, e tra di noi dicevamo: è un nuovo fastidio, perché bisognerà aggiungere un padre e un'ave di più. Ne avevamo già abbastanza. Ma Giovanni Maria, che aveva allora 7 anni, ci riprese: mio Dio, che cosa sono mai un padre o un'ave in più? Sono subito detti. Ben presto il nostro santo, che non fu un fanciullo avvezzo alla mollezza, dovette dormire, secondo l'uso della campagna, in un angolo della stalla, ove era stato preparato un letto per lui e per Francesco. Siamo buoni, diceva a suo fratello maggiore, per non essere sorpresi come i peccatori.